Certe volte le domande più semplici sono le domande anche a cui è difficile rispondere. Se io vi chiedessi perché si va a messa, anzi, per usare la parola giusta, perché si va al santo sacrificio? Si va al santo sacrificio anzitutto per essere salvati dai nostri peccati. È per questo che si fa celebrare anche la messa per i nostri defunti, perché siano perdonati i loro peccati, le loro colpe, e possano vedere il volto di Dio. Dunque si va a messa al santo sacrificio per essere salvati. Il secondo motivo è per essere istruiti nella nostra fede cristiana. Siamo così poco istruiti nella nostra fede? Allora io oggi vorrei darvi due insegnamenti attraverso due frasi piuttosto forti, piuttosto pesanti. La prima frase la prendo dal libro dei Giudici, capitolo sesto, e dice: gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore, e il Signore li consegnò nelle mani dei nemici per 7 anni. Amici, abbiamo capito bene? Gli israeliti hanno peccato e subiscono il castigo dei nemici. Oggi purtroppo noi non siamo più abituati a sentire queste parole, ma questa è parola di Dio, Non è parola mia. Il che vuol dire che se noi facciamo il male, aspettiamoci il castigo. Basta guardarci nel mondo. Tutto il male, i castighi che ci vengono addosso, arrivano dal male. Quando la gente si mette a fare il bene, è un paradiso la nostra terra. Dunque, se noi facciamo peccati, aspettiamoci prima o poi il castigo. Perché? Perché Dio vuole correggerci. Quante volte un genitore, se il figlio sbaglia, gli dà una punizione, magari non pesante, e gli dice, dovrebbe dirglielo con gentilezza, così impari. Certo, se glielo dice, così impari, sbaglia. Ma se gli dà una punizione, dovrebbe dirgli, questo ti serve per imparare. Come a scuola, se tu fai un errore, è sottolineato. Come per la strada, se tu fai un errore contro il codice e c'è la polizia, tac, te la multa, o c'è l'autovelox. Questo vale anche per la vita cristiana, amici. Se tu sbagli, il Signore ti corregge anche con una punizione. E poi, se tu sbagli, aprite bene le orecchie, amici, tu ti schieri dalla parte del diavolo. Cosa ha fatto il figlio prodigo? Me ne andrò da questa casa, vai. Quando è andato e ha abbandonato suo padre, suo fratello e la sua famiglia, un fastidio dopo l'altro, una disgrazia dopo l'altra, ha dovuto ritornare a chiedere perdono a suo padre. Perché come il bene viene da Dio, il male viene dal maligno. È la stessa parola. Noi questo lo dimentichiamo. Io ho voluto ricordarvelo. Certo, poi è possibile pentirsi, come ha raccontato il libro dei Giudici, in cui dice: quando gli israeliti ebbero gridato al Signore, il Signore mandò loro un profeta. E da lì comincia la liberazione. Quando noi abbiamo sbagliato, chiediamo al Signore il perdono, alziamo al Signore la nostra preghiera e ci risolleviamo. Come? Ecco la seconda frase che volevo spiegarvi ed è una parola del santo di oggi, Sant'Alfonso Maria de Liguori. Credo che sia sconosciuto alla più parte di voi, eppure è un grandissimo santo. Bisognerebbe, amici, quando andiamo per le strade delle nostre città, vedere il nome delle vie e cercare a chi ha intitolato. Magari sono dei grandi cittadini, dei grandi patrioti e nessuno li conosce. O quando veniamo in chiesa e sentiamo il nome dei santi, magari sono grandissimi santi e noi neanche li conosciamo. Sant'Alfonso Maria de Liguori ha detto una frase famosa per me: chi prega si salva, chi non prega, non lo sapete? Si danna. Chi prega si salva, chi non prega si danna. Amici, c'è il paradiso e c'è anche l'inferno, ricordiamocelo. Veniamo a messa per essere salvati e per imparare la nostra fede.